Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Giganteschi manifesti ripetevano in caratteri barocchi Lucia di Lammermoor, Lagardy. Emma fu presa dal batticuore già dall'atrio. Involontariamente sorrise di vanità nel vedere che i più s'affollavano a destra, riversandosi attraverso l'altro ingresso, mentre lei saliva la scala dei primi posti. Provò un piacere puerile a spingere con le dita le larghe portiere imbottite. Aspirò a pieni polmoni il sentore di polvere dei corridoi e quando fu seduta nel suo palchetto irrigidì il busto con una disinvoltura da duchessa. Intanto s'erano accese le candele dell'orchestra. Fu calato dal soffitto il lampadario a spanderne la sala insieme con il luccichio dei suoi cristalli sfaccettati un'improvvisa allegria. Poi fecero il loro ingresso i suonatori, uno dopo l'altro. Cominciò un lungo accordo di contrabbassi ronzanti, violini stridenti, pistoni laceranti, flauti e ottavini pigolanti. Ma risuonarono tre colpi sulla scena. Attaccò un rullio di timpani, gli ottoni insinuarono le loro voci. Levandosi, il sipario scoprì un paesaggio. Un crocevia in un bosco con una fontana a sinistra all'ombra d'una quercia. Lei si ritrovava tra le letture della giovinezza, in pieno Walter Scott. Le pareva di sentire attraverso la nebbia il suono delle cornamuse scozzesi ripetersi sulle brughiere. Il ricordo del romanzo l'aiutava a capire il libretto, così poteva seguire la trama frase per frase, mentre inafferrabili pensieri le tornavano per disperdersi subito sotto le raffiche della musica. Si abbandonava al dondolio delle melodie. Si sentiva vibrare con tutto il suo essere, come se gli archetti dei violini passassero sui suoi nervi. Una giovane donna si fece avanti, gettò una borsa a uno scudiero tutto in verde. Poi restò sola. Allora si sentì un flauto fare come un mormorio di fontana o un gorgheggio d'uccelli. Lucia attaccò con aria grave la sua cavatina in sol maggiore. Si lamentava d'amore. Desiderava delle ali. Anche Emma le avrebbe volute le ali, fuggir la vita, volarsene via in un abbraccio d'amore. Ed improvviso ecco Edgardo, Lagardy. Era pallido, uno di quegli splendidi pallori che conferiscono una marmorea maestà alle ardenti razze del meridione. Il torso vigoroso era serrato in un farsetto di color bruno, un piccolo pugnale cesellato gli sbatteva contro la coscia sinistra, girava intorno languidi occhi e metteva in mostra i denti abbaglianti. Suscitò l'entusiasmo subito dalla prima scena. Serrava Lucia tra le braccia, la lasciava, tornava, pareva disperato, aveva clamorosi scatti di collera e poi elegiaci rantoli di una dolcezza infinita. Il suo collo nudo partoriva note piene di singhiozzi e di baci. Per vederlo meglio, Emma si sporgeva, piantando le unghie nel velluto del parapetto, si riempiva il cuore dei lamenti melodiosi, strascicantisi sull'accompagnamento dei contrabbassi, come urli d'un naufrago nel tumultuar d'una tempesta. Le riconosceva tutte quelle ebbrezze, quelle angosce, lei. Non ne era morta per poco. Quando lanciarono l'ultimo addio, Emma proruppe in un grido acuto che si confuse con gli accordi conclusivi. «Scusa, ma perché quello lì la perseguita?» domandò Charles. «Non hai capito nulla. È il suo amante», replicò lei. «Ma allora perché giura di vendicarsi sulla famiglia di lei?» Nonostante tutte le spiegazioni di Emma, dopo il recitativo in cui Normanno espone al suo signore Ashton i suoi abominevoli traffici, Charles, vedendo il falso anello di fidanzamento destinato a ingannare Lucia, credette che si trattasse invece di un ricordo d'amore inviato da Edgardo. A ogni modo, confessava di non capire i fatti. La musica nuoceva troppo alle parole. «Cosa importa? Sta zitto!» protestò Emma. «Ma a me piace rendermi bene conto delle cose, lo sai», insisté lui chinandosi sulla sua spalla. «Sta zitto, sta zitto!» si spazientì lei. Lucia veniva avanti sorretta dalle sue donne. Aveva una corona di fiori d'arancio tra i capelli. Era più pallida del raso bianco della veste. Emma pensava al giorno del suo matrimonio. Si rivedeva laggiù, in mezzo al grano, sul piccolo sentiero, diretta in chiesa. Ah, se nel fulgore della sua bellezza, prima di venire insozzata dal matrimonio e di venir delusa dall'adulterio, avesse potuto fondare la sua esistenza su un gran cuore saldo, allora, certo, confluendo virtù, affetto, voluttà, dovere, non sarebbe mai discesa da una così alta felicità. Ma una simile felicità era soltanto una menzogna escogitata per frustrare ogni desiderio. Lei adesso la conosceva bene, l'angustia delle passioni che l'arte è sempre pronta a esasperare. Edgardo, lampeggiante di furore, dominava tutti con la sua voce più chiara. Ashton gli scagliava in note gravi provocazioni omicide. Lucia filava il suo acuto lamento. Arturo modulava in disparte medi accenti. E i bassi toni del ministro russavano come un organo, mentre le donne ripetevano in coro deliziosamente le sue parole. Stavano tutti sulla stessa fila a gesticolare. L'ira, il desiderio di vendetta, la gelosia, il terrore, la pietà e lo stupore prorompevano insieme dalle bocche dischiuse. L'oltraggiato amante aveva snodato la spada, squassava il collare di pizzo con gli urti del petto, andava da destra a sinistra a gran passi, facendo tentennare contro le tavole del palcoscenico gli speroni dorati dei suoi stivali flosci svasati alla caviglia. Doveva possedere, pensò lei, una capacità inesauribile di amore se ne poteva versar tanto a getto continuo sopra la folla. Tutte le sue velleità di distacco svanivano sotto la suggestione poetica della finzione. Attratta verso l'uomo dall'illusione del personaggio, si provò a immaginarne la vita, una vita clamorosa, straordinaria, magnifica, una vita che anche lei avrebbe potuto spartire del resto se solo il caso lo avesse voluto. Avrebbero potuto conoscersi, si sarebbero amati. Con lui in tutti i regni d'Europa avrebbe viaggiato da una capitale all'altra, avrebbe condiviso fatiche e trionfi, raccogliendo i fiori gettati a lui, ricamando i costumi per lui, e poi ogni sera, nel fondo di un palchetto, dietro la grata dorata, avrebbe ricevuto, beandosi, le effusioni di quell'anima che avrebbe cantato per lei soltanto, guardando sempre lei dalla scena. Ma cosa faceva ora? Diventava pazza? Lui la guardava, ne era sicura. Ebbe voglia di correre a buttarglisi tra le braccia, a rifugiarsi nella forza di quell'uomo che era l'incarnazione dello stesso amore. Gli avrebbe detto, gli avrebbe gridato: «Portami via, rapiscimi, fuggiamo! Son tua, son tua! Son tuoi i miei ardori, tutti i miei sogni!» Calò il sipario. L'odore del gas si mescolava a quello degli aliti. Le folate dei ventagli rendevano l'aria ancora meno respirabile. Emma volle uscire. I corridoi rigurgitavano di gente. Lei ricadde nella sua poltrona, il batticuore la soffocava. Charles ebbe una gran paura di vedersela svenire e corse alla buvetta a prenderle un bicchiere d'orzata. Fece una gran fatica per riconquistare il proprio posto. A ogni passo qualcuno gli urtava i gomiti e lui aveva quel bicchiere in mano. Anzi, finì per versarne un tre quarti sulle spalle d'una ruennese scollata che, sentendo il liquido freddo correrle giù sino alle reni, si mise a strillare come un pavone assassinato. Prima o poi, comunque, riuscì ad arrivare alla sua meta e disse, ansando alla moglie: «Credevo proprio di non poterne venir fuori. C'è una ressa, una ressa. Indovina un poco chi ho incontrato. Il signor Leon». «Leon? Proprio lui, e ha detto che verrà a salutarti». Aveva appena finito di pronunciare queste parole quando il personaggio in questione fece il suo ingresso nel palco. Léon tese la mano con disinvoltura, da uomo di mondo. La signora Bovary gli offrì la propria, meccanicamente, ubbidendo senza dubbio all'attrazione di una volontà più forte. Non s'era più sentita così da quella volta, quella sera di primavera, con la pioggia sulle foglie verdi, la sera in cui s'erano detti addio in piedi accanto alla finestra. Ma presto, richiamandosi alle convenienze, si sforzò di reagire al torpore dei ricordi. Prese a balbettare una parola sull'altra. «Ah, buongiorno, buonasera, come voi qui?» «Silenzio!» protestò qualcuno dalla platea. Stava cominciando il terzo atto. «Siete dunque a Rouen adesso?» «Sì. E da quando?» «Fuori! Alla porta!» Si giravan verso di loro, si misero zitti. Ma da quel momento lei non stette più ad ascoltare. Il coro dei convitati, la scena di Ashton e del suo paggio, il gran duetto in re maggiore, tutto passò come in lontananza, quasi gli strumenti avessero perduto di sonorità, i personaggi fossero indietreggiati verso il fondo del palcoscenico, e invece continuava a ricordare le partite a carte dal farmacista, la passeggiata sino alla casa della balia, le letture sotto la pergola, i colloqui intimi davanti al caminetto, tutto quel loro povero amore, così quieto e così lungo, così discreto e così tenero, caduto in oblio. Perché mai lui le era di nuovo davanti? Quale mai combinazioni di circostanze lo reintroduceva nella sua esistenza? Stava dietro di lei adesso, appoggiato con le spalle alla parete. Ogni tanto lei si sentiva rabbrividire al tiepido soffio delle sue narici che le scendeva tra i capelli. «Davvero vi divertite a questa roba?» le disse lui, e s'era talmente chinato che con la punta d'un baffo le sfiorava una guancia. Lei rispose pigramente: «Oh, mio Dio, no, non troppo!» Poi Léon sospirò: «Fa un caldo tale!» «Ah, insopportabile, è vero!» «Non stai bene?» si informò Bovary. «Mi manca l'aria. Andiamo via!» Léon le posò delicatamente sulle spalle il lungo scialle di merletto e se ne andarono a sedersi tutte e tre all'aperto, sul porto, davanti alla vetrina d'un caffè. Dapprima parlarono della malattia di lei, sebbene Emma interrompesse ogni tanto Charles per timore, diceva, d'annoiare il signor Léon. Costui a sua volta raccontò che avrebbe passato un paio d'anni a Rouen in un importante studio per impratichirsi bene degli affari. C'era una tale differenza a questo proposito tra la Normandia e Parigi. Poi chiese notizie di Berthe, della famiglia Homais, della vedova Lefrançois. In seguito, data la presenza del marito, i due non trovarono più nulla da dirsi. Così presto la conversazione cadde. Gente che tornava dallo spettacolo passò sul marciapiede, canticchiava o sbraitava a piena gola l'aria Oh, bell'alma innamorata! Allora Léon, per far vedere che se ne intendeva, prese a parlare di musica. Aveva sentito tamburini, rubini, persiani, grisi. Accanto a loro Lagardy, pur con tutte le sue esplosioni vocali, sfigurava. «Però», lo interruppe Charles, che demoliva a piccoli colpi il suo sorbetto al rum, «dicono che all'ultimo atto sia veramente grande. Mi dispiace di essere venuto via prima della fine. Stavo appena cominciando a divertirmi». «A ogni modo, darà presto un'altra rappresentazione», replicò il praticante di notaio. Ma Charles replicò che il giorno dopo se ne sarebbero andati. «A meno che tu voglia restar qui sola, gattina mia», aggiunse rivolgendosi alla moglie. Cambiando istantaneamente manovra davanti all'occasione insperata che gli si offriva, Léon attaccò a dir le lodi di Lagardy nel pezzo finale. «Qualcosa di superbo, di sublime». Allora Charles insisté. «Tornerai domenica. Deciditi su, non rinunciare se appena pensi che ti possa far piacere». «Se voglio essere sincera, non so proprio», balbettò lei con un misterioso sorriso. «Beh, ci penserai, vedremo, la notte porta consiglio». E a Léon, che li accompagnava, Bovary disse: «Ora che siete tornato da queste parti, verrete qualche volta a pranzo da noi, posso sperarlo». Il praticante di notaio confermò che non avrebbe mancato, tanto più che doveva proprio fare una scappata a Yonville per questioni del suo studio. Si separarono davanti al Passage Saint-Herblain. Suonavano le 11:30 alla cattedrale. Léon, nel rivedere Emma dopo 3 anni di distacco, sentì rinascere la vecchia passione. Ma ora doveva essere più deciso, pensò, doveva farla sua. D'altra parte, la sua timidezza s'era logorata al contatto con le compagnie frivole. Era tornato in provincia colmo di disprezzo per chiunque non calpestasse con scarpe di vernice l'asfalto del boulevard. Dopo aver salutato i signori Bovary quella sera, li aveva seguiti da lontano per la strada. Poi, quando li aveva visti fermarsi al Croce Rossa, aveva girato sui tacchi e aveva passato la notte a escogitare un piano. Il giorno seguente, dunque, verso le 5, entrò nella cucina dell'albergo con la gola serrata, le guance pallide, con quella risolutezza dei vili che non conosce ostacoli. «Il signore non c'è», disse un cameriere. la cosa gli parve di buon auspicio. Salì. Lei non si turbò al suo apparire. Al contrario, si scusò per aver dimenticato di dirgli a che albergo fossero scesi. «Oh, l'ho indovinato!» replicò Léon. «Come?» Sostenne di essere stato guidato verso di lei dal caso, dall'istinto. Lei non seppe trattenere un sorriso e immediatamente, per riparare a quella stupidaggine, lui raccontò di aver passato l'intera mattinata a cercarla successivamente in tutti gli alberghi della città. «Vi siete dunque decisa a restare?» aggiunse. «Sì, e ho avuto torto. Non bisogna far l'abitudine a lussi proibiti quando si hanno mille preoccupazioni. Oh, immagino. Eh no, non siete mica una donna voi. Ma forse gli uomini non hanno i loro guai?» La conversazione iniziò su queste riflessioni filosofiche. Emma si diffuse molto sulla miseria degli affetti terreni e sull'eterna solitudine in cui resta sepolto il cuore. Per farsi valere, o per un'ingenua imitazione di quella malinconia che provocava la sua, il giovane uomo dichiarò di essersi enormemente annoiato per tutto il tempo degli studi. La procedura lo irritava, era un'altra la sua vocazione, e la madre non smetteva di torturarlo di lettera in lettera. Lei non gli rivelò la sua passione per un altro, lui non le disse di averla dimenticata. Forse non se ne ricordava proprio più delle sue cenette dopo il ballo con le ragazze di strada, lui. Senza alcun dubbio, lei non li aveva più per la testa, i convegni di quel tempo ormai così lontano, quando al mattino correva tra l'erba verso il castello dell'amante. I rumori della città arrivavano appena sino a loro, e la camera appariva angusta, fatta apposta per serrar maggiormente quella solitudine. «Ma scusatemi, ho proprio torto. Vi sto annoiando di sicuro con i miei eterni lamenti. No, mai, mai! Oh, se sapeste tutto quel che avevo sognato!» riprese lei, alzando al soffitto i begli occhi che covavano le lacrime. «E io allora? Oh, quanto ho sofferto! Spesso uscivo, me ne andavo in giro, mi trascinavo lungo i viali, mi stordivo con il frastuono della folla senza poter liberarmi dall'ossessione che mi perseguitava. Sul boulevard da un mercante di stampe è in mostra un'incisione italiana che rappresenta una musa. È drappeggiata in una tunica, guarda la luna. Ah, dei non ti scordar di me nella chioma sciolta. Qualcosa mi spingeva continuamente là a guardarla. Ci restavo ore e ore». E aggiunse con un tremito nella voce: «Vi rassomigliava un poco». La signora Bovary girò la testa perché lui non vedesse il sorriso che sentiva salirvi irresistibilmente. «Spesso», riprese lui, «vi scrivevo lettere che poi strappavo». E perché mai?» «Perché?» Lui esitava. «Perché vi ho talmente amata!» E applaudendosi per aver saltato il fosso, Léon spiò i tratti di lei con la coda dell'occhio. Fu come il cielo quando un colpo di vento spazza via le nubi. Il cupo ammasso dei pensieri tristi parve ritrarsi da quegli occhi turchini, l'intera faccia di lei raggiò. Lui aspettava. Alla fine lei rispose: «Ne avevo sempre avuto il dubbio».